RAI, Radio 3. Si è chiesto che cosa significhi abitare ed è andato per il mondo a osservare e a raccontare i luoghi dove anche molto anticamente si abitava. Diciamo che l'ospite di Fahrenheit in un certo senso ha percorso la rotta inversa rispetto a quella dei migranti di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Benvenuto Ugo Tonietti. Grazie per l'invito. Allora, Ugo Tonietti è un architetto, insegna scienze delle costruzioni e di problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica all'Università di Firenze. Sì. E ha scritto per l'Asino d'Oro un libro particolarissimo, un libro che si chiama Abitare la Terra, un libro fatto di parole naturalmente, ma fatto anche di immagini, perché è andato quasi per caso a esplorare, a osservare delle architetture nel Nord Africa e non solo, nel Sahara, in zone dove si trovano ancora dei luoghi da preservare, perché lei fra l'altro si occupa, questo non l'avevamo detto nella biografia introduttiva, di protezione dei siti che sono di patrimonio dell'umanità, è vero? Sì, è vero, ho avuto questa fortuna, sì. E continuo tuttora, insomma. Questa è l'occasione di questi viaggi. Ecco, l'occasione di questi viaggi. Quindi sono nati in questo modo. Che cosa lei andava a cercare all'inizio, durante i suoi viaggi? Perché in molte cose si è anche imbattuto casualmente, alcune invece erano ricerche mirate. Certo. Cioè, l'inizio, devo dire, è stato un tema che sembrava classico di lavoro, di ricerca. Io, con dei miei colleghi del Dipartimento dell'Università di Firenze, mi occupo di delle costruzioni antiche e del modo con cui si possono mantenere e valorizzare. E a un certo punto questi interessi si sono estesi grazie a degli amici, dei colleghi che ci hanno aperto degli orizzonti nuovi e siamo andati a finire nel Nord Africa a occuparci di una cosa di cui credo che una persona normale non ha più nemmeno contezza, cioè che il patrimonio costruito addirittura in terra cruda. Questo patrimonio costruito in terra cruda è in realtà un modo di risiedere, di stare al mondo, che coinvolge quasi un terzo della popolazione mondiale. E quindi in realtà è una cosa diffusissima e vastissima e che si presenta in forme, e questo comincia, qui inizia una sorta di interesse specifico, che si declinano in modo diversissimo a secondo dei luoghi dove si va. Cioè ci sono costruzioni nel nord del Marocco, diverse dal sud del Marocco, diverse dall'Algeria, diverse dall'Egitto, e in realtà ci sono culture, ci sono intere culture. E quindi all'inizio è stato semplicemente studiare una medina, una torre, un monumento, e poi però, devo dirlo con franchezza, cioè uno entra in un mondo affascinante per la diversità pazzesca che presentano queste situazioni, questi luoghi. Ecco, lei scrive nel libro di essere andato, e effettivamente anche da quello che stava dicendo poco fa si evince molto facilmente, alle radici del concetto di abitare degli esseri umani. Ora mi sta facendo più un filosofo e non lo sono, però il problema è vero che si pone, perché quando uno sta un po' di tempo in questi ambienti è chiaro che è come venisse trascinato in una situazione che per noi è vicina a quella originaria, a quella del primordiale, perché costruirsi una casa di fango e paglia è un gesto che in realtà potrebbe risalire ad alcuni millenni. Quindi visitando, stando, frequentando queste cose, uno è trascinato per forza da farsi delle domande, soprattutto venendo da un mondo che è il nostro, dove invece c'è proprio il contrario, cioè c'è questo incredibile, c'è questa costruzione continua di cose, di oggetti, di cose che si affollano, e uno si domanda, ma alla fine, il modo degli esseri umani di stare al mondo, l'arte di abitare che poi dà il titolo al libro, cioè, ma c'è qualcosa che la caratterizza, che la contraddistingue? E lì è venuta questa, appunto, la riscoperta di questi modi poverissimi, ma talvolta seducenti enormemente sul piano proprio dell'immagine, ma anche dell'espressività. Perché queste collettività che in realtà si fanno i villaggi e poi li disfano perché si spostano, perché sono un po' nomadi, e li rifanno in un altro modo, a secondo, insomma, ci fa pensare che noi un po' queste cose le abbiamo perse. Ecco, lei diceva modi anche diversi di interpretare l'esigenza primaria. Per esempio, lei prima citava la capanna di fango e paglia, però c'è capanna e capanna, e immagino che lei ne abbia viste di sì. Tipologie diversissime. Sì, per sì, esempio? Sì. No, per dire, cioè, ora parliamoci chiaro, ora, costruire con la terra cruda è esso stesso un'arte. Perché significa anche esporsi alle intemperie, vuol dire, cioè, non è che si costruisce la terra cruda per una cosa che dura due giorni. Ci sono del, per esempio, cito una magnifica moschea, la più famosa moschea d'Africa, forse, che è in Mali, a Jenné, che è la moschea del venerdì, che è un tempio, un'opera d'arte, una cosa gigantesca, con dei pinnacoli altissimi, traforati di legni. Cioè, è una cosa che non è che si... Insomma, c'è veramente una sapienza dietro, anche se è una sapienza artigianale che è nelle mani di tanti. Non c'è l'architetto che l'ha fatta, la modificano continuamente. Devo dire che in questi modi di cogliere le diversità di queste culture, per esempio, una cosa che a me, ma a noi, al mio gruppo, insomma, quelli che sono venuti con me, ci ha colpito da morire, è per esempio le costruzioni che abbiamo trovato in Egitto, in un'oasi che si chiama Siwa, molto molto a sud, partendo, per capirsi, da Alessandria e andando in direzione della Libia. E lì ci hanno chiamato perché sistemi di cooperazione volevano salvaguardare un'antica cittadella che stava rovinandosi. Abbiamo scoperto, perché in realtà non ce l'ha detto nessuno, che questa cittadella del XII secolo, ormai quasi un rudere, è costruita in sale. Cioè è costruita con qualcosa che in realtà è preso dalla terra, ma lì avevano un lago salato e avevano già dei blocchetti preparati, e questa cosa è durata per 9-10 secoli. È stata abitata per 9-10 secoli ed è una sorta di panettone con delle finestrine. Ora ripeto, c'è rimasto pochissimo, ma è una meraviglia del mondo ed è un modo con cui gli uomini raccontano di cosa sono capaci quando ne hanno voglia. Raffaella da Velletri ci manda un SMS per ricordarci che in Italia le case di terra cruda venivano usate fino al 1945. Le risulta? Sì, ora pensi, in Italia non è ufficialmente proibito costruire in terra cruda, anche se onestamente in Sardegna, nel Campidano, i sardi si danno da fare lo stesso. Senta, lei, Ugo Tognetti, individua un po' nei vari luoghi che ha visitato e raccontato alcune costanti. Queste costanti sono la sfida alla natura, sì, la spontaneità, la caducità, purtroppo, e poi ne parleremo a lungo, e anche il ruolo delle donne. Sì. Allora, partiamo dalla prima. Sfida alla natura è comprensibile, perché molti, già la descrizione delle costruzioni di sale che lei ci ha raccontato adesso rientra un po' in questa categoria. Ce ne sono altre che colpiscono molto, quando lei per esempio descrive i villaggi fortificati, villaggi dove praticamente non si mettono mai in piedi in terra. Sì. Il visitatore è sempre attraverso corridoi, percorsi in aria. In aria, sì, soprattutto la sera. Lì mi viene in mente sono i villaggi del sud del Marocco, nella zona di Zagora, al di là dell'Atlante, in direzione... Poi c'è un cartello fantastico a Zagora che dice Timbuktu, 52 giorni, uno si immagina. 52 giorni? Sì, perché sono a cammello. E niente, quindi entra in un mondo di favola, insomma, cioè, e lo si vive così, realmente. Io l'ho vissuto così proprio, mi sono sentito improvvisamente dentro un romanzo di Salgari. Cioè, ecco, in questi ambienti però, che sono di una raffinatezza estrema, diciamo, esiste una sfida alla natura, perché le condizioni con cui l'uomo si è ricavato la possibilità di proteggersi, insomma, il mondo non è facile per gli esseri umani. Fin dalla nascita, no, noi siamo incapaci di sopravvivere se non a certe condizioni. Certo. E quindi in realtà abbiamo sviluppato una capacità che tra l'altro ci distingue dagli animali, che è quella di reagire, di rispondere, di inventare qualcosa per sopperire a delle carenze. Ecco, è veramente curioso e straordinario come si declina questa capacità ai livelli essenziali e primigeni. Per cui una casa di terra, per esempio, è un oggetto che è semplice da fare, anche se, ripeto, non è banale, ci vuole dell'intelligenza. Poi però, quando uno entra dentro queste case, per esempio in ambienti tipo l'oasi nel pieno deserto, si accorge che ci sta benissimo. Cioè, questi oggetti che sono così apparentemente fuori del mondo, in realtà sono idonei per quella funzione e per quel modo di abitare. Posso chiederle subito una cosa? È qualcosa che abbiamo perso nel tempo, secondo lei? Sì. Questa? No, ora qui si tratterebbe di fare la storia dell'uomo, ma non c'è dubbio che il nostro rapporto con la natura ora è difficilissimo. Noi abbiamo perso una sensibilità che avevano i nostri antenati, anche, ripeto, di qualche secolo fa e non di età. Chiaro che noi abbiamo talmente tanti filtri, noi abbiamo bisogno delle previsioni del tempo per capire che cosa succederà domani. È chiaro che questa cosa non succedeva ai nostri nonni, non ne avevano bisogno. Quindi è chiaro che in condizioni di rapporto con la natura più diretto, tutto questo viene più in maniera più facile. Ma ci sono delle cose che sono sorprendenti. Io quando l'ho scoperta, per esempio, lei lo sa che le oasi non sono mandate lì da non si sa chi, la palma con il laghetto sono il risultato di un lavoro umano straordinario. Ci sono canalizzazioni sotterranee che drenano l'umidità. Cioè, per ottenere un'oasi c'è uno sforzo che si è compiuto nel corso di tantissimo tempo, che poi arriva a, perché viene, ogni goccia d'acqua viene tesaurizzata. Ci sono dei muretti fatti traforati di terra cruda in cui la sera passa il vento e il vento ha dell'umidità e questa umidità rimane e si deposita su questi muretti traforati e poi cola a terra e si è opportunamente circondata con delle pietre, eccetera, lì poi ci può nascere un arbusto. Quando c'è nato un arbusto, due arbusti, poi la palma. La palma, per esempio, quando fa cadere i suoi frutti, le piccole foglie, crea un humus e su questo piccolo humus poi nascono delle altre cose. Cioè, è in realtà un tesoro, cioè è una cosa, diciamo, è un insegnamento da questo punto. È un insegnamento. Allora, di insegnamenti poi lei ne ha raccontati molti. È arrivato un altro SMS di un'altra ascoltatrice, sempre sulla terra cruda. Allora è Paola che scrive e dice stanno sorgendo molti gruppi legati all'idea della società in transizione che stanno recuperando la cultura della costruzione in terra cruda e le chiede: ma perché in Italia è stata posta fuori legge? Questo è semplice. Perché? Perché noi abbiamo, insomma, la società moderna, voglio dire, certe cose non sono tutte negative, nel senso, perlomeno sono spiegabili. Cioè, noi abbiamo delle norme tecniche sulle costruzioni. Le norme tecniche sulle costruzioni sono figlie un'evoluzione, ma anche di scoperte, eccetera. In un mondo in cui si costruisce con il cemento armato e con l'acciaio, bisogna dimostrare che le cose che si fanno reggono a certi urti, certo. Soprattutto la nostra è un'area sismica. Quindi il problema è un problema, diciamo.